spaventato all'idea d'averti persa. Come un fulmine mi ha colpito in testa. Mi sento vuoto in balia di una tempesta. Poteva essere una sera perfetta. Io lotterò per te come un principe nelle favole, per capi come i tuoi io non ne ho visti mai, visti mai. Io lotterò per te, sei la luce che scioglie le mie nuvole, ma non ti accorgi, sai, delle emozioni che spontaneamente mi dai, che mi dai. Non capisco i tuoi allontanamenti. Quando si affacciano dei sentimenti, non è la prima volta che accade che ti porto sul più bello e vuoi scappare. Forse hai paura di scottarti, anch'io non so cosa m'aspetti, ma almeno voglia di provarci, va a conoscerti senza compromessi. La tua mente mi strega ed io ti voglio, guardo oltre le perderti, ma ti rincontrerai quando sei pronto per la felicità. Io lotterò per te come un principe nelle favole, per capi come i tuoi io non ne ho visti mai, visti mai. Io lotterò. Sai, delle day.